Allora, siamo al terzo capitolo del trattato di Pesachim. Abbiamo concluso la scorsa volta spiegando alcune regole sul Korban Pesach. Abbiamo visto che non poteva essere bollito né in acqua né in altri liquidi, per esempio come succo di frutta, eccetera. Adesso la Mishnah porta un altro caso. Dice: questi sono gli elementi che trasgrediscono Pesach. Sono, ve li leggo direttamente tradotti: la ricotta di Babel, la birra di Madì, l'aceto di Edomì, la birra degli egiziani, e poi ci dà altri tre elementi: la poltiglia che usavano i tintori, poi l'amido dei cuochi, la colla dei Sofrim. Spieghiamo un attimo. Allora, questi sono innanzitutto ci elenca degli elementi, diciamo, non sono tutti cibi, ma sono comunque degli impasti, dei miscugli che sono proibiti di Pesach. In quanto proibiti, la Mishnah ci vuole dire che bisogna eliminarli prima di Pesach. E inizialmente indica quattro miscugli, diciamo, di caratteristici di alcune città. Sono quattro specie nazionali molto famose, diciamo così. Questi miscugli, infatti, che in ebraico si dice taharovet, sono mescolanze di ingredienti, tra cui qualche ingrediente che è hametz, non kasher. Per esempio la birra, ok? 25 cereali. Hametz abbiamo visto, per esempio, la birra, la La birra in ricotta. generale. La birra in generale, però, sicuramente, Paese. sì, in particolare questa qua, che non è l'ingrediente principale, hametz, ma è un elemento. Ok? Anche in minor parte rispetto al resto, ma è comunque un elemento del miscuglio, Che lo e rende quindi ovviamente Hametz. lo Scusa, rende ma una cosa tutto che proibito. sapevo io, che si poteva sostituire la birra da col vino quando fai allora non è vero. Sì, ma Pesach Pesach è birra tutto. no, Questo Pesach stiamo Pesach parlando no. Però birra del caso si può in cui sostituire. Pesach. Allora, vediamo questo tarobet. Dalla Torah non sarebbe, diciamo, proibito, perché il Hametz pure è proibito. Questa è, diciamo, un assurdo, un divieto dei rabbini, ok? Quindi i rabbini hanno vietato di tenere in casa, eccetera, oppure possedere queste quattro specie, per evitare che poi si possa finire a mangiarli. Poi, subito dopo, la Mishnah cita altri tre, invece, elementi che non sono cose da mangiare. Sono, li chiama la Mishnah, sono specie professionali. Sono, si dice nel termine tecnico, nukshe, che sarebbe, contengono del Hametz, ok? Anzi, non solo contengono il Hametz, ma l'ingrediente principale è il Hametz. Per esempio, il primo che ho citato era la poltiglia che usavano i tintori. Questa poltiglia era fatta interamente di crusca e la usavano i tintori, diciamo, per il loro grazie mille. La usavano i tintori nel loro lavoro. In questo caso, qual è il problema? Che l'ingrediente principale è ovviamente Hametz, e quindi ci verrebbe logico pensare di eliminarlo. Ma sicuramente sono cose che tu non vai a mangiare, sono difficili da Certo, mangiare. Non vai a mangiare una è una poltiglia che cosa. usa il tintore, o non vai a mangiare l'amido che utilizza per pulire il cuoco. Quest'amido, spiega la Mishnah, che era una sorta di farina che il cuoco usava come detergente sulle pentole, sulle padelle dopo aver cucinato, per, diciamo, togliere i residui di cibo, e Hai poi trovato una cosa la oggi. colla del sofer. Quindi stiamo citando due specie, uno che potevamo pensare di tenerli in casa, eccetera, perché l'ingrediente principale non era Hametz, ma era solo una piccola parte. Invece no, la Mishnah dice no, vanno tolti, vanno eliminati. L'altro, diciamo, sì, vabbè, l'ingrediente principale è il Hametz, ma io non mi Non lo sognerei mai di mangi. mangiarlo. Invece no, vanno tolti comunque. E allora, Rabbi Eliezer Omer obietta, quindi abbiamo studiato che quando introduciamo con questa formula Sì. Rabbi Eliezer Omer, alla fine dice, vuol dire che sta obiettando, vuol dire che sta aggiungendo qualcosa in più, vuol dire che non è d'accordo al 100% con quello che abbiamo detto sopra. Aggiunge anche, un caso particolare, la ceretta delle donne. Questa ceretta molto probabilmente era fatta con qualche cosa di Hametz, una farina particolare che era di Hametz. Allora, dov'è il problema qua? Che cosa ha aggiunto Rabbi Eliezer? Perché non rientra nei casi precedenti? Perché se ci pensiamo bene, questa ceretta fa parte di tutte e due. Perché uno è nukshe, non ti sogneresti mai di mangiare una cosa che usano le donne per fare la ceretta. Due, nemmeno è l'ingrediente principale, diciamo il chametz. Non è l'ingrediente principale, è una piccola parte e non lo mangeresti mai. Ma Rabbi Eliezer è molto rigoroso, dice no, non si può tenere nemmeno quello. Sia che non te lo mangeresti mai, sia che l'ingrediente principale è, ma lo devi comunque eliminare diciamo, dalla tua casa. E poi la Mishnah cita la regola generale. Questa è la regola, cioè tutto ciò che è fatto di farina, stiamo parlando della farina, come diceva giustamente prima Ariel, che abbiamo studiato nei Mishnayot precedenti, cioè la farina dei cinque cereali, cioè quella che Sì. dà chametz, è una trasgressione di perpè, cioè scusate, va tolta per Pesach, va eliminata per Pesach, perché costituisce una trasgressione, ma non c'è la pena di karet. Forse abbiamo visto in precedenza, o comunque sappiamo, che chi mangiava il chametz volontariamente durante Pesach aveva la pena del karet, che era la pena più grave che si poteva avere. Qui dice non c'è pena del karet, ma perché non c'è pena del karet? Perché non sta mangiando del chametz puro, o lo sta mangiando mescolato, Una cosa sicuramente sta, presa, non oppure è è una cosa che non digitale. mangiava, eccetera. Quindi non è puro, però ovviamente qui dice che trasgredisce, che fa una trasgressione molto importante. Allora da qui capiamo che anche se il chametz è un elemento infinitesimo di un miscuglio, non si può comunque tenere a Pesach. Solitamente noi abbiamo una regola, che è la regola del sessantesimo, che quando tu hai un miscuglio e una parte su 60 è di qualcosa che tu per esempio non puoi mangiare, qualcosa di non kasher, il restante 59 parti, restante, scusate, 60 parti, perché non è se, lo annulla, un battel, si dice, lo annulla. Allora questa regola non si applica per Pesach, questa ci può essere anche un infinitesimo di chametz in un Ragione. miscuglio, rende invalidante tutto il miscuglio, lo rende, diciamo, non kasher le Pesach, ok? Questa è una regola molto importante. Lilla. 7 minuti, cioè facciamo fare altri 3 minuti di Notte Sì, Mishnah? vai, vai, vai, fai un'altra, mi Perfetto. piace. Allora, Tanto lui è qui, ma guarda, è già questa arrivato. è Sono un po' rotto. complicata, però ve lo dico, io addio. Vabbè, Stiamo parlando dell'impasto Batzek che rimane nelle fessure delle dispense, quindi può essere importante per le mogli, Ah, eccetera. Se bruciata tutta la cucina. c'è, chi ce l'ha la cucina? Ah, No, chi c'è la chi ce l'ha la moglie? moglie? Se c'è un kazait, che abbiamo visto la scorsa volta, vuol dire Unità di misura. letteralmente come un'oliva, unità di misura che equivale circa, ci sono diverse opinioni, 28. ma è circa 28 grammi. Se c'è diciamo, questa quantità in un unico posto, quindi in un'unica fessura ci sono questo equivalente di impasto, che ovviamente stiamo parlando di un impasto non kasher, allora si deve togliere, ovviamente, no? Se abbiamo questo impasto, supera una certa quantità, bisogna toglierlo. Ma se no, se sono tante piccole briciole sparse, diciamo, in tutte queste fessure, in tutte le dispense, o madie, come diceva il testo, allora diciamo, non bisogna toglierlo, perché è un battel, si annulla, è infinitesimale, diciamo. Quanti Ok? infinitesimi se fanno la quantità? Non va, no, bravo, Uno. esatto, Se no, invece non arriviamo stanno al insieme, fanno punto. 29. Se invece stanno insieme, allora in quel caso va tolto. Lo stesso vale per le regole della Tumah, cioè della purità. E cioè che cosa vuol dire? Che se qualcuno che era impuro toccava questo impasto che era superiore al kazait, superiore o equivalente al kazait, allora l'impurità non si passava in tutta la dispensa. Perché? Perché l'impurità rimaneva contenuta nel pezzettino. Cioè mi spiego meglio. Se sono tanti pezzettini Isolati. isolati, disposti in tutta la dispensa, allora fanno parte della dispensa, ok? Quindi se qualcuno li tocca ed è impuro, rende impura tutta la dispensa, giusto? Sì. In Fa teoria. parte della dispensa, ok? Se invece è un kazait, cioè un Una quantitativo quantità superiore in un solo punto, e qualcuno lo tocca, quel qualcosa non fa parte della dispensa, ok? Quindi l'impurità rimane confinata all'interno di quel pezzettino, perché è un elemento a sé Non fa stante. parte nel senso in quanto non è distribuito nella dispensa. Esatto, non è Perché è già un distribuito. kazait, Perché è quindi d'accordo. diventa Un qualcosa a sé. Infatti, qua Ah, ok, vabbè, il già un termine qualcosa. tecnico Cose è strane. quello Estraneo. che dice. Sì, breve, dice Cozzezza, intercapedine lo traduce la. Quindi è un qualcosa che tappa il buco, questo Ah, pezzo ok. più grande, ok? E poi parla di una cosa molto interessante. Bazzek a Keres. Sarebbe Keres, quello sordo. Che vuol dire un impasto sordo? Ci sono diverse opinioni, ma una è che quando tu lo batti questo impasto non emette il suono, come un sordo che lo chiami e non risponde. Quindi vuol dire che è un pane non è lievitato, ok? È duro, Ah. ok? Non ha avuto il tempo Già lo di sapevano che lievitare. quando, come la pizza, quando La la dobbiamo batti? sbattere, Se senti è cassa di per fare risonanza dentro che è rumore, perché vuota. è il gas che sta dentro. Esatto, quindi vuol dire che non c'è Quindi gas. uno cosa dovrebbe fare perché Aspetta, però ti dice che comunque è proibito. Aspetta, vediamo un attimo. Se c'è vicino un pane che invece hai lievitato, allora sono tutte e due vietati, certo. ok? Perché la Mishnah dice due cose. Uno, perché dopo potresti impastarli insieme, Sì, allora vabbè. rendi invalido tutto quello. Ma un altro motivo è perché è passato un tempo sufficientemente lungo perché uno ha lievitato. Magari l'altro non ha lievitato per qualsiasi motivo, se tu mi insegni l'umidità, non lo so, eccetera, però qui ci sta dicendo che a noi non ci importano tutte queste cose, ma se c'è uno che ha lievitato e l'altro no, vuol dire che tu gli hai dato un tempo sufficiente. Il tempo sufficiente basta per rendere assurdi vietati tutte e due. Qual è sto tempo sufficiente per lievitare? 20 minuti. 18. 18 minuti, Cioè sì. Ok. sarebbe il tempo che percorre un uomo a passo normale per un chilometro, ok? Fine della Mishnah. Bravo, Cosa. Hazak. Grazie.